Patti, mi compri la banda degli Sputacchiones? Uffa! Dalla televisione, pazzi brufos, tutta puzza. Vomitators, demolition, sbava tutto e sputa pizza. Entra dentro casa mia, nausea, bande, truciolones. Videogiochi, tutti pugni e sballati centuriones. Ma non era poi meglio Pinocchio? A quel principe che era un ranocchio. No! Come no? Solo ormai in ogni stanza c'è una tartaruga ninja.